Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Quella notte cavalcai fino a Carlow e mi fermai nella migliore locanda. Al padrone che chiedeva il mio nome, dissi di essere Mr. Redmond, secondo le istruzioni di mio cugino, dei Redmond della contea di Waterford, e aggiunsi che ero diretto al Trinity College di Dublino per completare la mia educazione. Visto il mio bell'aspetto, la spada con l'elsa d'argento e la valigia ben fornita, il padrone si prese la libertà di mandarmi su in camera una caraffa di chiaretto senza che l'avessi chiesta. E naturalmente me la fece pagare ben cara nel conto. Ma ai bei vecchi tempi nessun gentiluomo andava a letto senza una buona dose di vinello per facilitargli il sonno. E quel giorno, che segnava il mio primo ingresso nel mondo, io mi feci un punto d'onore di comportarmi in tutto e per tutto da perfetto gentiluomo. Vi assicuro che recitai la mia parte alla perfezione. Gli eventi eccitanti della giornata, l'andarmene di casa, il duello con il capitano Quinn sarebbero bastati a farmi girare la testa anche senza chiaretto. Quello poi servì a darmi il colpo di grazia. Non sognai la morte di Quinn come avrebbero forse fatto certi mullaccioni. Del resto, non ho mai avuto stupidi rimorsi in seguito alle mie questioni d'onore e ho sempre pensato, fin dalla prima volta, che se un gentiluomo rischia la vita in un combattimento virile, è uno sciocco a vergognarsi poi di avere vinto. A Carlow dormii più sodo che mai. Per colazione bevvi un boccale di birra leggera con un toast e cambiai la prima delle mie monete d'oro per pagare il conto senza dimenticare di lasciare l'autemance a tutti i servi, come si conviene a un gentiluomo. Così cominciai il primo giorno della mia vita nel mondo, e così ho continuato. Nessuno è mai stato in ristrettezze peggiori delle mie. Nessuno ha mai sopportato tali e tanti stenti e privazioni, ma nessuno può dire di me che se avevo una guinea non me ne liberassi subito spendendola con la liberalità di un lord. Per il futuro non avevo alcun timore. Certo che un uomo con qualità, sangue e coraggio come i miei, si sarebbe fatto strada dovunque. E poi avevo in tasca 20 guinee d'oro, somma che, e qui mi sbagliavo, calcolavo dovesse bastarmi per 4 mesi almeno. Nel frattempo sarebbe capitato qualcosa a mettermi sulla via della fortuna. Così proseguì il viaggio, canterellando e chiacchierando con i passanti. A quanto a Nora e a Castle Brady, tra ieri e oggi sembrava che fossero passati 10 anni. Giurai che non avrei mai rimesso piede laggiù finché non fossi stato un grand'uomo, e il giuramento lo mantenni, come sentirete, a tempo debito. A quei tempi c'era più vita e più traffico sulla strada maestra, non come oggi, che le carrozze di posta ti portano da un capo all'altro del regno in una manciata di ore. I benestanti, allora, viaggiavano a cavallo o su carrozze di loro proprietà e impiegavano 3 giorni per un percorso che oggi si fa in 10 ore. Così, a chi andava verso Dublino, non mancava mai la compagnia. Una parte del viaggio, da Carlow a Naas, la feci con un gentiluomo ben armato che veniva da Kilkenny, vestito di verde, con alamari oro. Aveva un occhio bendato e cavalcava una robusta giumenta. Mi fece le solite domande, dove andavo di bello, e non aveva paura mia madre a lasciar viaggiare un giovane come me con tutti i banditi che c'erano in giro, ma io risposi che avevo un paio di buone pistole già provate sul campo. Ne estrassi una dalla fondina e pronte per la seconda prova. E qui, all'avvicinarsi di un uomo butterato, lui diede di sprone alla sua cavalla baia e mi lasciò. Era un animale molto più robusto del mio, e poi non volevo stancare la mia cavalcatura, Intendevo entrare a Dublino quella notte stessa, in condizioni che non mi facessero sfigurare. Mentre mi avvicinavo a Kilcullen, vidi una folla di contadini radunati attorno a un calesse. E il mio amico vestito di verde che galoppava mezzo miglio lontano, su per la collina. Un lacchè gridava «Al ladro!» a pieni polmoni. Ma la gente di campagna, per tutta risposta, rideva delle sue smanie, inventando ogni sorta di scherzi sull'avventura appena capitata. «Ma come? Potevi tenerlo a bada con il tuo archibugio?» diceva uno di loro. «Che vigliacco! Lasciarsi malmenare dal capitano, che ha pure un occhio solo!» gridava un altro e un terzo. «La prossima volta che la signora va in viaggio, sarà meglio che ti lasci a casa!» «Cos'è tutto questo baccano, amici?» dissi io, entrando a cavallo nel gruppo. Ma non appena vidi nel calesse una signora molto pallida e spaventata, con un colpo di frusta ordinai a quei mascalzoni di tenersi alla larga, loro e le loro gambe arrossate dal sole. «Cos'è stato, signora, a disturbare vostra signoria?» dissi, togliendomi il cappello e facendo impennare la mia cavalla in modo da trovarmi accanto al finestrino del calesse. La signora, spiegò, era la moglie del capitano Fitzsimons e si affrettava verso Dublino per raggiungere suo marito. Il suo calesse era stato fermato da un bandito. Quel gran babbeo del suo servo, benché armato, era caduto in ginocchio davanti a lui e per quanto ci fossero 30 persone al lavoro nel campo vicino, quando quel farabutto l'aveva aggredita, nessuno si era mosso per aiutarla. Anzi, avevano salutato il capitano, così chiamavano quel criminale, augurandogli buona fortuna. «Certo, è l'amico dei poveri», disse un tale, «e buona fortuna a lui!» «Erano affari nostri?» chiese un altro, e un terzo spiegò, con il sorriso sulle labbra, che si trattava del famoso capitano Freeney. Due giorni prima aveva comprato l'assoluzione dalla giuria. Appena fuori di prigione, era montato a cavallo e il giorno dopo aveva rapinato due avvocati in viaggio di trasferta. Dissi a quella manica di farabutti di tornare al lavoro, o avrebbero assaggiato il mio staffile. E cominciai a confortare, come meglio potevo, Mrs. Fitzsimons sulle sue sciagure. «Aveva perduto molto?» le chiesi. «Tutto! La borsa, con più di 100 guinee, i gioielli, le tabacchiere, gli orologi e anche un paio di fibbie da scarpe con i diamanti che erano del capitano Fitzsimons. La commiserai sinceramente per questa disgrazia e, riconoscendo il suo accento inglese, deplorai la differenza che esisteva tra i due paesi. Nel nostro, mi riferivo all'Inghilterra, queste atrocità erano sconosciute. «Anche voi siete inglese?» domandò piuttosto sorpresa. E io risposi che lo ero, e che ero fiero di esserlo. Non ho mai conosciuto un vero gentiluomo d'Irlanda che non volesse poter dire altrettanto. Cavalcai a fianco del calesse di Mrs. Fitzsimons per tutta la strada fino a Naas. Dato che le era stata rubata la borsa, le chiesi il permesso di prestarle un paio di monete d'oro per le spese dell'albergo. Somma che lei si compiacque di accettare, invitandomi al tempo stesso a condividere il suo pranzo. Alle domande della signora sulla mia nascita e i miei parenti, risposi che ero un giovane gentiluomo di ampi mezzi. Questo non era vero, ma ci si guadagna a gridar forte che non si ha un soldo. La mia cara madre mi aveva insegnato fin da bambino questo tipo di prudenza. Ero di buona famiglia, della contea di Waterford, che andavo a Dublino per i miei studi e che mia madre mi passava 500 sterline all'anno. Mrs. Fitzsimons fu altrettanto generosa di confidenze. Era figlia del generale Granby Somerset, un uomo che certamente conoscevo di fama. Non l'avevo mai sentito nominare, ma ero troppo ben educato per dirlo. Ed era scappata di casa, doveva confessarlo, con l'allora sottotenente Fitzgerald Fitzsimons. «Ero mai stato in Donegal?» «No? Ah, che peccato! Il padre del capitano vi possedeva 100.000 acri e Fitzsimonsburg, Castle, era il più bel castello d'Irlanda. Il capitano Fitzsimons era il primogenito, ora aveva litigato con suo padre, ma avrebbe ugualmente ereditato quell'immensa proprietà. Poi riprese a raccontarmi dei balli a Dublino, dei banchetti al castello, delle corse di cavalli a Phoenix Park, delle sale da ballo, dei viglioni, finché non mi venne una gran voglia di prendere parte a questi divertimenti. Mi dispiaceva davvero che la mia posizione rendesse necessaria un'assoluta riservatezza. Non avrei potuto venire presentato a corte, dove i Fitzsimons erano astri di prima grandezza. E com'era diverso l'allegro chiacchierio della signora dal volgare strepito femminile ai ricevimenti di Kilwonger. Ad ogni frase lasciava cadere il nome di un lord o qualche altro personaggio importante. Era chiaro che conosceva sia il francese sia l'italiano. Di francese ne sapevo anch'io qualche parola, come ho già detto. A quanto al suo accento inglese, diciamo che forse non ero io la persona più indicata per giudicarne. Per dirla tutta, lei era la prima inglese vera che avessi mai incontrato. Mi raccomandò anche di essere molto cauto nello scegliermi le amicizie a Dublino, perché là c'era abbondanza di farabutti e avventurieri di ogni paese. E si può immaginare la mia gioia e la mia gratitudine quando, giunti al dessert e argomenti più intimi, mi propose gentilmente di prendere alloggio a casa sua, dove il suo caro Fitzsimons, disse, avrebbe accolto con grande piacere il coraggioso giovane che aveva salvato la vita di sua moglie. «A dir la verità, signora, dissi io, non ho salvato proprio nulla». «Cosa verissima! Non ero forse arrivato sulla scena della rapina troppo tardi per impedire al bandito di fuggire con il denaro e con le perle?» «E poi, signora, non c'era mica tanta roba», disse Sullivan, quel servo goffo che si era tanto spaventato all'arrivo di Freeney e che ora ci serviva a tavola. «Non vi ha restituito i 13 penny di rame e anche l'orologio? Diceva che era di simil oro, ma la padrona gli diede del mascalzone e dell'impudente e lo mandò subito via». Mi disse poi che quello sciocco non sapeva neppure cosa fosse una banconota da 100 sterline, come quella nel portafoglio rubato da Freeney. Beh, forse, se io avessi avuto un po' più di esperienza del mondo, a questo punto avrei cominciato a capire che Madama Fitzsimons non era poi la persona distinta che voleva sembrare. Invece, presi tutte le sue storie per oro colato, e quando l'oste portò il conto del pranzo, lo pagai con un'aria da lord. Per la precisione, lei non accennò nemmeno a tirar fuori le 2 sterline che le avevo prestato. E così ce ne andammo senza fretta verso Dublino, entrando in città al cadere della notte. Lo strepito e lo splendore delle carrozze, le fiamme delle torce portate dai piccoli fiaccolai, il numero e la grandiosità dei palazzi, tutto quanto mi riempì di stupore e meraviglia. Ma facevo bene attenzione a nascondere questi sentimenti, secondo le istruzioni di mia madre, che mi aveva detto che un uomo di mondo si riconosce da come non si stupisce mai di nulla. Non ammetterà in nessun caso che un palazzo, un cocchio o un circolo di conoscenze siano più splendidi o raffinati di ciò a cui era abituato a casa propria. Alla fine ci fermammo davanti a una casa d'aspetto piuttosto squallido. Si entrava in un corridoio molto meno pulito di quello di Berryville, con un forte odore di cucina. Un uomo corpulento e rubizzo, senza parrucca, in veste da camera e berretto da notte, entrambi piuttosto sbrindellati, comparve dalla porta del salotto e abbracciò la sua signora. Era infatti il capitano Fitzsimons, con non poco entusiasmo. Quando poi vide che era accompagnata da uno straniero, la strinse a sé di nuovo con più slancio di prima. Nel presentarmi, lei continuava a ripetere che ero il suo salvatore e lodava il mio coraggio come se io avessi ucciso Freeney invece di comparire solo a rapina avvenuta. Il capitano disse che conosceva intimamente i Redmond di Waterford, cosa che mi preoccupò molto, visto che io non sapevo nulla della famiglia a cui dicevo di appartenere. Per prevenirlo, Gli domandai quali dei Redmond conosceva, perché in famiglia non avevo mai sentito parlare di lui. Disse che era amico dei Redmond di Redmondstown. Oh, dico io sono dei Redmond di Castle Redmond. Così lo misi fuori pista. Andai a lasciare il mio ronzino in una stalla da quelle parti, dove erano sistemati anche il cavallo e la carrozza del capitano, e poi tornai dal mio ospite. Anche se aveva davanti solo un piatto scheggiato con resti di rognoni e cipolle, il capitano disse: «Amore mio, peccato che io non sapessi del tuo arrivo. Bob Moriarty e io abbiamo appena finito uno straordinario pasticcio di selvaggina. Ce l'ha mandato Sua Grazia il Lord Luogotenente, insieme a una bottiglia di champagne di Sillery dalla sua cantina. Ma quel che è stato, e non c'è niente da fare. Allora che ne diresti di una buona aragosta con una bottiglia del miglior chiaretto d'Irlanda? Betty, sparecchia la tavola e fa buona accoglienza alla signora e al nostro giovane amico». Non avendo spiccioli, Mr. Fitzsimons mi chiese di prestargli una moneta da 10 penny per il piatto di aragoste, ma la signora tirò fuori una delle guinee che le avevo dato e la diede alla ragazza, dicendole di farsele cambiare e comprare la cena. Quella tornò subito, riportando solo qualche scellino. Disse che il pescivendolo aveva tenuto il resto a saldo di un vecchio conto. «Gran pasticciona imbecille!» urlò Mr. Fitzsimons. «Dargli la moneta d'oro!» Spiegò che aveva pagato a quell'individuo non so più quante centinaia di guinee nel corso dell'anno. Benché il servizio non fosse molto raffinato, la nostra cena fu comunque condita di una ricca riserva di aneddoti su tutti i personaggi più importanti di Dublino. Gente con cui il capitano, a suo dire, aveva rapporti strettissimi e molto cordiali. Ah, per non essere da meno, io parlai delle mie terre e delle mie proprietà come se fossi stato più ricco di un duca. Raccontai tutte le storie di vita nobiliare che avevo sentito da mia madre e forse anche qualcuna inventata da me. Avrei dovuto accorgermi che anche il padrone di casa era un impostore, perché non faceva caso a tutti gli errori e le imprecisioni nei miei racconti. Ma la gioventù è sempre troppo fiduciosa. Doveva passare ancora del tempo prima che mi accorgessi che, incontrando il capitano Fitzsimons e sua moglie, non mi ero procurato conoscenze molto desiderabili. Quella sera andai addirittura a letto congratulandomi con me stesso per la mia straordinaria fortuna, che proprio all'inizio delle mie avventure mi aveva fatto imbattere in una coppia tanto distinta. Dall'aspetto della mia camera avrei potuto almeno immaginare che l'erede di Fitzsimons Castle, contea di Donegal, non si era ancora riconciliato con i suoi ricchi genitori. Se fossi stato un ragazzo inglese, credo che avrei subito dubitato e diffidato della situazione. Ma forse in Irlanda, come il lettore sa, non siamo così pignoli in fatto di pulizia come lo sono gli abitanti di questo paese schizzinoso. Perciò il cattivo stato della mia camera da letto non mi colpì troppo. I vetri rotti e tappati con stracci non c'erano pure a Castlebrady, superba dimora di mio zio. Perciò, anche se la mia camera vantava tutti questi inconvenienti e qualcuno di più, anche se la mia coperta da letto era indubbiamente un vecchio abito di broccato della signora Fitzsimons macchiato di grasso, anche se lo specchio rotto della mia toeletta non era più grande di una moneta da mezza corona, io ero abbastanza abituato a condizioni simili nelle case irlandesi da credere che chi mi ospitava fosse una persona distinta. I cassetti non avevano serratura e, quando riuscii ad aprirli, li trovai pieni di scatole da trucco, scarpe, busti, stracci, tutta roba della signora. Così lasciai le mie cose in valigia, tirando fuori solo la mia cassettina da viaggio in argento, che sul panno lacero del comò faceva una splendida figura. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini.